Salva Danaio di Deborah Rosciani. Carmelo, non è brutta la sigla di Salva Danaio versione natalizia, invece non piace particolarmente al nostro tecnico, invece la trovo molto rassicurante, anche perché ormai ci siamo abituati a questa sigla con il tintinnio natalizio, chissà se sono renne o strenne, da qualche anno. E comunque, insomma, anche la sigla ci introduce al tema che affrontiamo oggi nel nostro contenitore dell'economia e della finanza familiare, un tema un po' originale rispetto a quello a cui siamo abituati, ma che l'anno scorso in questo periodo avevamo toccato ugualmente, e peraltro con un ospite che oggi è ritornato a trovarci. Allora, partiamo con ordine. Secondo la Coldiretti, 9 italiani su 10 trascorreranno la vigilia e il pranzo di Natale a casa con la famiglia, con gli amici più cari e i parenti più stretti, e gusteranno i piatti della tradizione territoriale. Quello gastronomico è, peraltro, sostiene appunto l'organizzazione di rappresentanza del mondo agricolo, fra i regali preferiti dagli italiani, con il minor tasso di riciclo, proprio per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola. E questa è un'indagine. Ce n'è un'altra poi che è stata pubblicata nei giorni scorsi da Federalimentare, l'Osservatorio Italiano sull'Alimentazione, secondo il quale invece accanto a tortellini, cappone, tacchino, capitone, bollito misto, solo per citare alcuni piatti tipici dei menù natalizi, gli italiani porteranno sulla tavola anche prodotti non strettamente tradizionali di queste festività, come pasta al forno, salumi, formaggi, ma anche salmone e frutta esotica. Allora, non per mancare di rispetto a queste rilevazioni, a queste indagini, ma ci sembra che non scoprano poi niente di particolarmente, come dire, originale. Lo sappiamo bene che è chiaro, magari in alcune zone si preferisce portare sulla tavola un menù strettamente tradizionale, ma chiaramente le contaminazioni ci sono, lo sappiamo bene, e non sono solo tipiche del periodo natalizio. Noi però oggi vogliamo proporvi dei menù economici per affrontare la crisi, se riusciremo a farlo. Ovviamente, oltre ai nostri ospiti, vorremmo anche il vostro contributo. Suggeriteci il vostro menù, la vostra spesa destinata alla cena della vigilia, al pranzo di Natale, a Capodanno, il primo dell'anno, quindi menù e spesa prevista, e confronteremo le vostre idee con quelle che hanno invece i nostri ospiti di questa mattina. Intanto ringrazio il nostro gastronomo Davide Paolini. Davide, bentornato tra di noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Davide, come sapete, va in onda il sabato e la domenica su Radio 24 alle 11 e alle 10 rispettivamente, dopo i GR, ma soprattutto è il grande cultore, insomma, della buona tavola, lo conosciamo tutti, e esattamente come avevamo fatto l'anno scorso, anche se l'anno scorso in realtà, Davide, te lo ricordi, avevamo esplorato il mondo della ristorazione e il mondo dei vini, oggi invece rimaniamo in famiglia, giusto? Ci aiuterai? Sì, giustissimo. Sì. Benissimo. E che altro invece ci aiuta? Tra l'altro, gli abbiamo fatto elaborare proprio dei menù per Salva Danaio, Cristian Broglia, chef executive di ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana diretta da Gualtiero Marchesi. Questi amici sono a Parma. Cristian, buongiorno e grazie di essersi sbizzarrito a preparare dei menù per il nostro contenitore finanziario, ma naturalmente per preparare il menù di Natale e Capodanno bisogna andare a fare la spesa, quindi un occhio al portafoglio bisogna buttarlo senz'altro. Cristian, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti, un saluto a Davide. Ed è stato un grande piacere anche per noi, anche perché io devo dire che l'ho sentito questa mattina presto, ci siamo sentiti più volte con Cristian tra ieri e oggi, ci ha preparato delle cosine veramente deliziose, poi per me che sono un'ottima forchetta soprattutto. Allora, io devo ricordare il numero verde per intervenire, che è l'800 24 00 24. Sbizzarritevi questa mattina, lasciamo da parte se possibile la crisi, le preoccupazioni economiche, e magari così cerchiamo di allietare un po' queste giornate stando sereni a tavola. Chiamateci all'800 024 0024, oppure scriveteci le vostre idee, i vostri menù originali, con un occhio però al risparmio, al 349 238 6666. Allora, siccome il tema è molto divertente, ci vogliamo entrare subito. Questa mattina do solo una rapida occhiata alla borsa. Oggi in Europa è negativa, gli indici stanno perdendo fra lo 0,7 e lo 0,8%, Milano meno 0,7% sulle FTSE MIB, i migliori titoli Mondadori e Mediaset più 2 più 1,6%, l'Ottomatica più 1,42%, i peggiori Monte dei Paschi perde 1,5 punti con il Banco Popolare, Mediolanum meno 1,4, Impregilo meno 1,4, Unicredit meno 1,4, quindi mi sembra complessivamente ancora una volta una giornata non buona per i titoli del settore bancario. In forte recupero il dollaro sull'euro, 1,4360, ieri la Banca Centrale Americana ha mantenuto i tassi americani invariati, e questo è il quadro. E poi c'è ancora la preoccupazione legata alla Grecia, in Europa questo sta comprimendo l'euro da qualche giorno. Ieri Standard & Poor's ha ridotto il giudizio sul debito sovrano greco, per l'appunto. Lasciamo la borsa, andiamo a quella della spesa. Adesso invece sentiamo un po' come si stanno preparando le famiglie ai menù natalizi. Nove italiani su 10 trascorreranno la vigilia e il pranzo di Natale a casa con parenti e amici per gustare soprattutto i piatti della tradizione territoriale. In particolare, quest'anno, per imbandire le tavole, ogni famiglia spenderà in media circa 225 euro, una cifra lievemente superiore rispetto allo scorso anno. E a trionfare sulle nostre tavole saranno ancora una volta le produzioni nazionali. Primi tra tutti, carni e insaccati, che rappresentano circa il 18% del menù, seguiti da pesce 12%, pane e cereali 14%, latte ma anche formaggi, uova, frutta e ortaggi. Il tutto naturalmente innaffiato da vino e spumante, che rappresentano invece il 14% circa. Tuttavia, secondo un sondaggio condotto da Federalimentare, anche il nuovo, quest'anno, conquista spazi inattesi sulla tavola, affiancandosi alle bontà che da sempre troviamo nel piatto in queste occasioni. Ad esempio, le lasagne sorpassano i tortellini nel menù della vigilia, sempre meno di magro, salmone e frutta esotica guadagnano spazio tra le portate di Capodanno, e sul fronte dei dolci, il panettone batte il Pandoro. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Vedo già qualche prenotazione da parte di alcuni di voi, ci fa molto piacere. Allora comincio con Davide Paolini. Se c'è una cosa a cui mediamente non si rinuncia per niente al mondo, almeno in Italia, Davide, è la tavola eccezionalmente bandita durante le feste, anche se magari quest'anno è abbastanza probabile pensare che si farà una certa attenzione ad evitare lo spreco e il superfluo. Secondo te davvero gli italiani preferiranno rimanere a casa quest'anno per celebrare le feste con dei menù quindi organizzati appunto in famiglia, tra amici e parenti, piuttosto che andare al ristorante? Manco per idea rimarranno a casa, ormai questi sono sogni. Io credo che molte tradizioni ormai siano completamente superate. Mi chiedo chi ancora oggi fa i cappelletti, perché io sono della scuola dei cappelletti, essendo romagnolo, e sono un tradizionalista. Per me i cappelletti sono quelli riportati dall'Artusi, quindi molto particolari e riferiti alla Romagna. Non riconosco i cappelletti fatti fuori dalla Romagna, quindi la mia talebanità è al massimo. Però dico, io non credo che la gente rimanga più a casa, perché innanzitutto si sposta, specialmente durante le feste, perché sono in contraddizione molti dati. Se è vero che tanti milioni di italiani se ne vanno e vanno in giro, vanno magari dai parenti, vanno in vacanza o d'altro, mi chiedo come si fa a parlare ancora di pranzo tradizionale. Io purtroppo, lo sottolineo questo purtroppo, quindi mangiare a casa è sempre più difficile. Io non credo che per un giorno gli italiani tornino a casa, facciano il bollito che ci vogliono 5 ore, facciano i tortellini che ci vuole altro tempo. Io credo che sempre di più si andrà, ho sentito da uno dei due sondaggi che si parla che le lasagne batteranno i tortellini. Certo, perché in questo momento c'è un bombardamento mediatico su molte aziende che stanno facendo delle lasagne già pronte, e quindi sicuramente molti italiani andranno su quella direzione. Io credo che forse l'unica cosa a cui non rinunceranno è il panettone, perché si va a comprare, si taglia e quindi c'è poco da fare. Ci si deve sforzare molto per prepararlo, anche se poi Christian Broglia, non voglio però anticipare molto della puntata di questa mattina, ci darà anche qualche indicazione per tutti i panettoni che verranno anche ricevuti in dotazione natalizia come regalo. C'è anche un modo appunto per continuare ad utilizzarlo, ovviamente anche passate le feste. Ovviamente Christian Broglia è immagino della scuola, delle vacanze in casa con la famiglia, soprattutto della scuola di chi cucina, evidentemente. Christian, io tra l'altro, siccome è molto giovane Christian, anche se ha un ruolo molto importante, una grandissima esperienza internazionale, già un amico, mi viene voglia di dargli del tu, Christian, quindi mi passi questa mattina questa libertà. Christian cucinerà, immagino, per tutta la famiglia, guai ad andar fuori, guai soprattutto a lasciarsi contaminare. Credo che Christian pure, non so se è romagnolo, ma tu sei parmense? Emiliano, per cui infatti, quando Davide ha parlato sui capelli sulla romagnoli, una fitta al cuore mi è venuta. Ecco, comunque. E tu li prepari per la tua famiglia e poi daremo il nostro menù, però rinunciate a questa tradizione voi a casa vostra, oppure avete soppiantato con qualcos'altro? No, allora la tradizione rimane sempre sulla tavola, ci deve essere, perché rimane sempre collegato con la storia della famiglia, la tua storia e il territorio. Naturalmente qualche piatto innovativo o diverso dal solito, perché penso che si abbia il tempo di cucinarlo, se ha il tempo di stare a casa, dedicarsi anche un po' di più ai fornelli, che purtroppo oggi non c'è più questa attenzione ed è un peccato perché si gioca anche con i fornelli. Qualche piatto nuovo e diverso, di diversi gusti, con più attenzione si può dedicare e portare in tavola. Ma tu certo poi naturalmente lo sperimenti anche per lavoro, quindi magari esatto. è un po' più facile, senza però portare niente di stravagante. Cristian, allora io tra un minuto e mezzo devo già andare in pausa, ci sono già degli ascoltatori pronti. Allora poi vi racconto la telefonata di questa mattina con Cristian Broglia. Gli ho chiesto, insomma, allora mi prepari qualche menù, ovviamente dando anche il budget previsto di spesa per gli ascoltatori di Salvadanaio. Lui mi ha detto sì, ma te lo preparo per la vigilia, per Natale, per Capodanno, il primo dell'anno, per cui già qua facciamo chiarezza, sono quattro menù diversi, non ci si può confondere tra una festività e l'altra. Esatto. Ecco, esatto. Il menù della vigilia, partiamo con questo, ma ti chiedo di darci solo i tre antipasti che hai previsto, sono tanti, lo so, però abbiamo ragionato molto sulla spesa, quindi Cristian andiamo a dare qualche suggerimento per chi ancora non ha messo la testa sul menù della vigilia di Natale. Allora, come antipasto, come inizio, si porta in tavola un involtino di scarola arrostita con dei pinoli e uvetti, quindi un agrodolce un pochettino amaro. Delizioso. Grazie Davide. Poi si richiama anche la tradizione napoletana, se vogliamo, no? Poi un tortino di alici, però fatto in padella, senza stare a perdere tempo con stampini, forno, quindi anche un costo in meno di tempo e di economico per accendere il forno. Fatto in palla direttamente con delle patate sottilissime, pomodori secchi e del pane grattugiato raffermo e del pecorino, l'abbinamento che è delizioso, l'ho provato appunto l'altra sera, che sarebbe poi le alici della Recitana. E l'altro antipastino, stando del budget, che potrebbe spaventare ma si sta nel budget, è una zuppa di topinambur, quindi una zuppa, una crema piacevole con delle canocchie leggermente bollite. Canocchie, sì, sì. Esatto. Che cosa sono, Cristian? È un crostaceo, non è la cicala di mare come tutti chiamano, oppure si chiamano anche sono le canocchie o le pannocchie in alcune zone. Ah, ecco, infatti, perché io le conoscevo quella più davanti, quindi pensavo che fosse qualcosa di diverso, vedi come sono ignorante, quindi devo imparare un sacco di cose. Allora, abbiamo dato tre antipasti, poi completeremo il nostro menù e con Cristian siate sicuri che abbiamo scelto un menù che non fa spendere più di 10 euro a persona, poi magari quantificheremo meglio. Devo andare in pausa, ma Davide, un giudizio lo voglio chiedere già. Davide, magari tu pensa a un vino da abbinare a questi piatti che il nostro Cristian Broglia ci ha proposto. Intanto ti piacciono, ti convincono? Ma io vado pazzo per le canocchie, perché si dicono con la C davanti alla romagnola, sono canocchie, quindi sono straordinarie, sono il pesce che costa meno, e uno dei pesci che costa meno ed è veramente straordinario, quindi sono completamente d'accordo. Beh, qui ci vuole sicuramente un vino bianco e quindi ci penso un secondo, poi quando tornerai ti dirò il vino. Benissimo, no, poi tra l'altro è chiaro che il vino fa un pochino lievitare la spesa, però ci atteniamo sempre su budget ragionevoli, ve lo promettiamo. Salvadanaio. Com'era facile prevedere, qua ci si sta sbizzarrendo anche in studio a raccontare il menù natalizio della propria famiglia. Abbiate pietà di me che sono in piedi alle 6 di questa mattina e ho la saliva che mi sta scivolando lungo gli angoli della bocca perché ho una fame nera, e quindi stamattina figuratevi con queste ricette straordinarie che stiamo dando a prezzi contenuti per preparare un buon menù natalizio ci stanno solleticando un po', ovviamente, il palato un po' a tutti. Allora stamattina con noi il nostro gastronauta Davide Paolini e Cristian Broglia, chef executive di Alma, che è la scuola internazionale di cucina italiana diretta da Gualtiero Marchesi. Tantissimi messaggi, Davide, peraltro ce n'è qualcuno per te, di tante famiglie, di tanti ascoltatori che ci stanno raccontando che, contrariamente a quello che si è detto all'inizio, tutti passeranno le vacanze a casa e ci stanno già raccontando anche che sono al lavoro e stanno già preparando, studiando il menù natalizio. Ovviamente non è che volevamo prima dire che tutti vanno al ristorante, la media di Trilussa è sempre quella, però diciamo che fondamentalmente, anche quando si parla tanto di crisi, poi la vacanza la si fa lo stesso e il ristorante lo si frequenta ugualmente, Davide, giusto? No, insomma, ti hanno scritto tutti coloro che rimangono a casa, giusto. Ma tutti quelli che vanno a mangiare fuori non ce lo confessano. Allora, te ne leggo qualcuno, guarda, allora siamo una famiglia numerosa, ci scrive Mija da Varese, siamo già tutti all'opera, cappelletti, bolliti, volovane e tanto altro, neppure i ragazzi vanno via a Natale, qualcuno è pure cassa integrazione, quindi insomma riconquistiamo un po' di calore natalizio anche per affrontare il momento difficile per questo. Scusami una cosa, ma sì. Fa fare i capelletti già con tanto anticipo, mi sembra che quando arriveranno saranno un po' induriti. Guarda, non so che dirti, perché in realtà ce lo vogliono testimoniare anche alcuni ascoltatori. Sentiamo un po' Massimo da Città di Castello, che ne ha fatti quanti? 10 chili, Massimo? Ma sì, diciamo, mia moglie con la mamma siamo intorno a 10 chili di capelletti messi gelosamente nel congelatore in attesa delle festività. Normalmente, diciamo, la festività che è Natale, ovviamente, poi si va avanti fino all'esaurimento delle scorte, ovviamente. E Massimo, quindi li mettete in congelatore? No, stavo ragionando, sì, su questo. Però, premesso, vorrei fare una premessa, che sono tassativamente fatti a mano, cioè sì, sia sì, dalla sfoglia, che è una sfoglia normale. No, gliel'ho fatto ribadire, la procedura che usa anche la mia mamma, che li prepara con una zia in casa, sì, e poi lo stesso mi fanno, esatto, anche le confezioni, esatto, da portarmi a Milano, naturalmente, perché figuriamoci se io sono capace di farli a mano. Cristian Broglia, una volta fatto il cappelletto a mano, puoi metterlo in congelatore, perde un po'... oppure insomma si conserva? Per poco tempo no, assolutamente, insomma, ricordiamoci che siamo nel 2010, i congelatori, gli abbattitori sono tecnologie che permettono anche di adeguare i tempi, di ottimizzare i tempi, anche migliorare la vita in cucina, quindi non c'è nulla di male, non sono al contrario. Quanta gente ci sta scrivendo che prepara i cappelletti, i puro sangue cappellettaro, ci scrive Claudio Romagnolo, puro sangue per l'appunto, quindi abbiamo toccato un tasto piuttosto interessante. Sono felice che tanti facciano i cappelletti, perché è un'impresa, È una dedizione a stare spiegati sull'asse di legno, tirare la fare spoglia, la pasta, fare il ripieno giusto. Sono contento. Allora, dopo gli tre antipasti che abbiamo indicato prima, andiamo ai primi, Cristian, della vigilia di Natale. Rimaniamo sempre alla vigilia. In vigilia, qui ho voluto inserire un tortello, sempre una pasta ripiena, perché fa molto tradizione, richiamo tradizione. Un tortello dolce, non pensiamo con la pasta frolla, un tortello di pasta fresca. E il tortello dolce, forse Paolo lo conosce, è una tipicità di Parma, anzi forse neanche di Parma, zone limitrofe, dove si fa con tre semplici ingredienti: mosto cotto, pane e parmigiano. Sentiamo subito Davide se lo conosce. Davide? No, confesso la mia ignoranza su questo piatto. Ma perché è veramente... Abbiamo recuperato. È veramente raro, nel senso, proprio nella zona di Parma che sta uscendo questa, si sta riconoscendo questo tortello, era ai tempi di Maria Luisa, quindi c'è anche un'influenza austriaca, ed è molto molto piacevole. Qui a Colorno e a Parma si fa tantissimo per la vigilia, proprio tradizione, poi chi ci mette l'uvetta, chi ci mette il pinolo, questo dopo ognuno la caratterizza. E viene la salsa e il condimento qual è? È il burro semplice, basta. Perfetto. Niente di più. Perché abbiamo già all'inizio abbiamo avuto degli antipastini un po', diciamo, non complessi, però un po' ricchi, e quindi un tortello dolce, oppure tradizione vuole la zucca, comunque sul dolce, condito col burro. L'altro primo, andiamo subito a raccontarlo. Dovevi aggiungere qualcos'altro, Cristian, perché io voglio andare subito all'altro primo, tanto mi piace, solamente a nominarlo, che... sì, guarda. Allora, l'altro primo si gioca un po' più coi gusti, e si fa sempre una pasta fresca, un tagliolino, fatto però con la farina di castagne. Fatto con la farina di castagne, condito con una fonduta leggera di taleggio e noci. Ma... quindi un classico, però insomma laborioso. Laborioso, però insomma a prezzi... A costo veramente, non dico zero, però pochissimo, perché è solo farina, uova e un po' di taleggio e due noci, insomma non è così esoso. Ecco, se questo, come dire, menù che stiamo preparando per la vigilia di Natale con Cristian Broglia lievita un pochino di prezzo, perché come secondo abbiamo previsto il pesce, adesso ne parliamo. Davide, però ti avevo chiesto un'indicazione di vino, ci hai pensato allora un attimo? Sì, sugli antipasti io direi, visto che ha parlato anche di una ricetta che c'è qualche ingrediente napoletano, metterei una falanghina. E invece di un altro vino metterei un romagnolo, un pagadebit, che specialmente per Natale va benissimo, perché era tradizione dei contadini romagnoli mandare questo vino per Natale, o da chi dovevano ricevere dei soldi, oppure era così un auspicio con questo vino, che era il primo a uscire, di pagare i debiti. Tra l'altro, mentre stavate chiacchierando, mi è venuta in mente anche un'altra cosa tipica natalizia, e cioè il regalo del cesto di Natale, no? Con dentro tutti i prodotti alimentari, per l'appunto. Davide, va ancora di moda fare un regalo di questo tipo? Perché tra l'altro è un ottimo regalo, si può spendere anche qualcosa di ragionevole, esteticamente parlando è molto bello. Ma io credo che cioè, se facessero qualche statistica, ecco, su quelle che abbiamo sentito prima ci credo poco, ma sulle statistiche che dicono che quest'anno, come negli anni passati ultimi, il cibo è stato forse il regalo più gettonato, credo proprio che quest'anno lo sia più di ogni altra cosa, anche perché mi sembra che in tempo di crisi sia anche giusto regalare un qualcosa che poi viene consumato, non un regalare un qualcosa di inutile che poi assolutamente è un dispendio di soldi e nessuno utilizza, tipo le 20 agende che arrivano di solito alle persone o i calendari. Ecco, io credo che sicuramente il cibo sia veramente molto, molto giusto e molto adatto, soprattutto anche in tempo di crisi. Devo dire una cosa, che ieri a me per esempio me ne è arrivato uno, un pacco di Natale con delle cose da mangiare per questo periodo, ed è un pacco confezionato interamente con prodotti dell'Abruzzo, quindi io ci aggiungo anche questa idea, Davide. Sì, sicuramente, sicuramente mi sembra una buona idea, anche perché le aziende della zona appunto del terremoto stanno riprendendo. Io a suo tempo avevo fatto una trasmissione, avevo sentito un po' tutti gli artigiani che avevano avuto dei danni e avevo lanciato un appello allora, poi non so se hanno ricevuto ordini ad altro, ma credo che ad esempio l'Aquila è un posto molto noto per il torrone, le sorelle Nurzia sono state così tra le prime a lanciare dei torroni, torroni al cioccolato, terrone morbido, quindi credo che sicuramente ad esempio il torrone che va molto per Natale sia un invito proprio a consumare questi prodotti di terra d'Abruzzo, ma poi ce ne sono tanti altri perché la terra d'Abruzzo è molto ricca di prodotti di giacimenti gastronomici. No, ma magari insomma quest'anno aiutiamo loro perché veramente sono letteralmente piegati, ancora insomma è ritornato anche il freddo, quindi questo momento è ancora difficile per chi, per fortuna diciamo che in casa sono ritornati quasi tutti, però è un'area che deve riprendere dal punto di vista proprio dell'economia in maniera molto importante. Andiamo da Patrizia da Livorno. Patrizia, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto già pianificato il budget di spesa per queste feste? Per mangiare? Ora, il budget è proprio pianificato, non lo so, onestamente, ma non si lascia molto tentare tra il banco del supermercato, insomma, non va là con le idee molto chiare, oppure va... No, io sono già almeno pronto. Benissimo. Ho già le idee chiare e credo di non spendere poi molto, perché l'ho sempre fatto tutti gli anni. Lo fate a casa? In quanti siete, Patrizia? Cucina lei soprattutto? Sì, io e mio marito anche. No, ma noi saremo noi quattro, ovviamente, perché purtroppo noi abbiamo già genitori, sono morti tutti giovani, quindi siamo soli. Io, mio marito e i due ragazzi, benissimo, il maschio e la femmina, i nostri figli. E cosa c'è di meglio, insomma, che stare infatti in tranquillità in famiglia? Niente, la vigilia non l'ho mai festeggiata. Non lo so se non si festeggia a Livorno o perlomeno in casa mia non l'abbiamo mai festeggiata, quindi il menù della vigilia niente. Andiamo a Natale. A Natale. Natale di solito noi facciamo l'antipasto classico, prosciutto, salame, insomma queste cose qua. I crostini un po' toscani, quelli con i fegatini di pollo. E poi ci metto un po' di maiale, io insomma forse lo faccio un po' diverso da altre zone qui della Toscana. Della Toscana. Poi dei vari sottoli che abbiamo fatto noi, tipo peperoni, melanzane, sott'olio. E poi come primo facciamo il brodo, io lo faccio di gallina, perché faccio la gallina ripiena, però non disossata, cioè è una gallina completamente normale, diciamo, solamente aperta sotto. Faccio tipo un polpettone, chiamiamolo, si mette dentro, cuocio la gallina e poi quando è pronta viene il polpettone, viene tagliato a fettine e la gallina si mangia. Sì. Ecco, e col brodo noi ci facciamo i tortellini, però non sono tortellini come dice il signor Davide, perché a mio marito non ci riescono a farli, noi si fanno quadratini, li facciamo da noi, però a quadratino, diciamo. Ho capito, deve perfezionare la forma, insomma, Patrizia, vabbè. Se no i tortellini, quelli classici che ci sono in Emilia, onestamente non ci riescono. E dopo il brodo di gallina, dopo il bollito di gallina, quindi dietro ci mette qualcos'altro, un altro secondo? Verdure, le radiche, non so, la sua collega ha detto non sapeva cos'erano. Sono le radiche lesse, quelle amare. Radiche lesse so e amare. Come chiamate voi? Non lo so, crediamo un po' a Christian Brogli. È la radice bianca, la radice, ecco, bravo, bianco. Perfetto. La marogna sul dolce, ma comunque qui vuoi marogna. Christian, è promosso il menù di Patrizia? Molto buono, poi sono sempre commosso a sentire il brodo, a sentire la gallina, è bello, manteniamo queste tradizioni. No, e poi anche tutti i sottoli fatti in casa. Ecco, per cui, ecco. Un altro appunto, vero? Benissimo. Patrizia, sul dolce andate, per quello che riguarda il dolce, sul tradizionale, pandoro panettone, senta, oppure a Livorno, cosa avete? Mangiatoroni, quando abbiamo mangiato tutte queste cose, un po' di nuovo di frutta secca, ecco, frutta appunto, normale. Ci si stravacca sul divano e ci vuole un bel digestivo e basta. Un po' di cose. Patrizia, buon Natale. Grazie, altrettanto. A presto. Noi ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, e poi continuiamo ancora con i menù natalizi. Facciamo un po' fatica a tirar fuori la spesa che fanno le famiglie italiane, però insomma quella di Patrizia ci sembrava di capire che non fosse poi particolarmente importante, insomma un onere economico molto molto molto grande. Salvadanaio. Allora, i menù di Natale a Salvadanaio, menù anche un po' con un occhio di riservo, un occhio attento al risparmio. Davide Paolini, c'è un ascoltatore che ci scrive: buongiorno, una nota leggermente polemica, poi a noi non sembra, sembra molto anche moderato nel tono, il messaggio del nostro Eddie da Prato. E allora ci scrive questo ascoltatore: sono un cuoco naturale, si può fare un accenno ad un menù più naturale e biologico per rispetto verso tutte le persone che per questo Natale non riusciranno, secondo i dati FAO, a mettere niente nel piatto? Meno arroganza nel fare menù con carne e valorizzare più frutta e verdura e cereali. Sono un accenno. Tra l'altro la carne l'abbiamo citata pochissimo, Davide, stamattina, a parte la gallina della signora di Livorno, poco altro abbiamo detto. Ma io non sono per gli estremismi, non sono né per le cene tutte vegetariane né per le cene tutta carne. Io credo che ci voglia un equilibrio, quindi sicuramente chi vuol farsi una cena vegetariana può farla benissimo. Però io volevo tornare un secondo sul discorso della spesa, che è molto importante. Bravo, grazie. Secondo me non è il problema di quanto si spende, ad esempio, per gli ingredienti che sono stati comprati, perché molti dei piatti natalizi possono venire recuperati, a cominciare dal panettone, a cominciare dalla gallina, a cominciare dai cappelletti, perché possono essere quello che rimane fritti il giorno dopo, il panettone può essere fatto in 30.000 maniere. Quindi io credo che, diciamo, non si può dire ho speso 20 per il pranzo e sono 20, no, perché io poi ci rimangio anche il giorno dopo, allora devo dividere per due. Io credo che l'importante sia non sprecare e riutilizzare tutto, e credo che appunto da questi piatti si possa riutilizzare tutto. Per tornare al discorso vegetariano, certo si possono fare delle lasagne fatte con la verdura senza mettere la carne, con la verdura si possono fare tantissime cose, e non credo che si possa dire, parlare di cena tradizionale, ma io credo che tutti i giorni chi segue così certi principi può benissimo seguirli, ma non li deve imporre agli altri. No, infatti. Come uno non impone di mangiare, io ad esempio i cappelletti, la scuola di pensiero dei cappelletti in Romagna è molto variegata, c'è anche una scuola di pensiero che dice che dentro il cappelletto ci va raviggiolo, parmigiano e basta, e non ci va la carne, quindi un vegetariano che vuole può benissimo prendersi i cappelletti in bianco. Benissimo. Allora, Cristian Broglia, siamo ancora al menù della vigilia, ce la faremo a fare quello di Natale, non lo so, però abbiamo dato 3 antipasti, i 2 primi. Andiamo al secondo. Che è di pesce? Il secondo, uno unico, che è un pesce che è un filo conduttore per tutta l'Italia, perché ci trasciniamo queste tradizioni importanti, e il pesce per eccellenza per la vigilia è il merluzzo. Il merluzzo che si mangia in mille salse, io l'ho voluto proporre il merluzzo, cioè, con croccante, quindi con una pastella leggera che poi si frigge, con dei finocchi saltati velocemente e degli spinaci. Tutto qua. Benissimo. Molto semplice, però se fatto bene risulta un grande piatto. Facciamo anche il dolce, va, della vigilia di Natale, già che ci siamo. Allora, il dolce è la sua tradizione, quindi il torrone, il panettone, tutto il resto. Però che cosa ho voluto aggiungere per dare un cucchiaio in più in tavola e anche un divertimento, che è una granita fatta col vin santo. Quindi si ricorda il santo, la granita, quindi per rinfrescare un po'. Poi dopo si passa a quello che è la ricchezza dei dolci natalizi, quindi c'è la spungata, il torrone, datteri, tutto quello che ne pandoro, tutto quello che ne... Beh, insomma, questo menù, Cristian, che abbiamo preparato per la vigilia, tu ci assicuri che non fa superare il limite di spesa di 10-12 euro per persona? Sicurissimo, anzi io ho fatto un calcolo anche meno, perché come diceva Paolo, fai la spesa, è vero, che fai per minime quantità, però anche il giorno dopo riesci a utilizzare, ti avanza, quindi riesci a creare degli altri piatti, quindi non è così dispendioso. Quello che costa un po' di più è il merluzzo e basta. Benissimo. Allora, adesso tra l'altro io vorrei dare anche il menù natalizio con Cristian Broglia, sentire ancora un paio di ascoltatori, tutto questo lo dovremo fare in 4 minuti, faremo dei miracoli come sempre. Massimo da Treviso, buongiorno, rapidissimo, però vedo che lei ha una bella idea che per la verità ho adottato anche io qualche volta. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. E niente, io da buon trevigiano sono legato al tiramisù, anche da tradizione familiare, e io uso il pandoro a Natale per, sì, che va a sostituire i savoiardi o chi lo fa eventualmente col pan di Spagna. Io lo faccio con i saiva, pensi un po' lei. Sì, anche con i pavesini tanti. Comunque ci sono mille varianti, diciamo. Però io a Natale uso quei pandoro che mi avvantano in più, perché ce ne regalano tra panettoni e pandoro, qualcuno in casa se li trova in più, io uso il pandoro imbevuto di caffè, di solito mascarpone con le uova, solo il rosso delle uova, zucchero e poi il cacao, nessun tipo di liquore, e così è un dolce che si può mangiare o a Natale o anche nei giorni seguenti. E infatti, Massimo, le chiedo rapidamente, Natale in casa, fate tutto da voi? Oppure... Noi facciamo sempre il Natale in casa, siamo una famiglia che siamo sempre in giro per lavoro, purtroppo noi preferiamo starcene a casa a Natale, e non lavoro io, ma lavorerà mia mamma e le mie sorelle, comunque io cimenterò l'appetito che ho sempre. E lei comunque fa il tiramisù col pandoro, abbiamo capito. Ringrazio Silvana da Pordenone, volevo sentire anche lei perché è molto curiosa la vostra tradizione familiare. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E niente, noi mangiamo la brovada con il musetto, che sarebbe il cotechino. È una rapa bianca che va cotta lentamente con il brodo e poi si unisce questa rapa che è un po' acidula col cotechino. E le trippe, questo naturalmente dopo che siamo stati a messa, ci si ritrova a casa. La messa di mezzanotte peraltro, non quella delle 10 del mattino della giornata di Natale. La messa di mezzanotte è proprio la tradizione, brovada, musetti. Benissimo, andate avanti fino alle 3 del mattino. Perché comunque una volta mangiato bisogna anche digerirla questa esatto. Serie di pietanze. Silvana, grazie molto per il suo contributo. Cristian Broglia, volevo chiudere con te perché dobbiamo dare rapidamente anche il menù natalizio. Tra l'altro il cotechino non abbiamo per niente citato, anche questo tipico di questo periodo, ma si mangia soprattutto credo con la lenticchia a Capodanno, perché porta a Capodanno, soldi. Avevo previsto il menù di Capodanno, appunto, che c'era le, facciamo c'era direttamente le quello, che cosa ne dici? Come preferisci, guarda, facciamo un elenco del menù di Natale, elenco dei piatti, veloce, sì. E poi se vuoi ci stiamo dentro anche con il cenone, nel senso proprio un elenco, un'idea. Rapidissimo, piatti, andiamo in un minuto e mezzo, vai. Andiamo, allora, a Natale, sempre in tavola all'inizio, allora, carciofi con la salsa d'uovo, o una passata di mele col profumo di cannella e petto d'anatra, l'insalata di puntarelle con la salsa d'acciughe e i crostini saltati, integrali, con una palamita in carpione con le piccole verdure. Primo, ravioli di patate, salsa di funghi porcini, classico. Anolini di magro, come si fanno a Parma, in brodo, oppure chi vuol fare, chi piace vegetariano, sentivo prima, un risotto di barbabietola rossa con la salsa ricca. Quindi sono due primi e ci hai dato due alternative. Okay. Sto elencando tanti piatti per appunto idee, comunque prevedo due primi. Un brodo e una pasta ripiena. Secondo, la suprema di cappone bollita, semplicemente bollita, con una porria di sedano rapa e delle castagne saltate al vino rosso. E poi, un po' più sfizioso, la pancia di vitello laccata al miele e anice stellato. Perché lì, anche prendendo spunto dal signore che ricicla, passatemi questo termine, il pandoro, tu hai pensato invece di farlo con il panettone? Col panettone, allora, prima di arrivare al dolce, appunto col panettone, si propone una zuppa di agrumi con gelato alla crema, semplicissima, quindi pompelmi rosa, mandarini, tutti puliti bene, e infine un soufflé di panettone. Io, Cristiano, non riesco a fare il menù di Capodanno perché fra qualche secondo devo salutare gli ascoltatori. Volevo salutare però Davide Paolini, naturalmente mi aiuti a fare una conclusione per questo programma, per questo Natale, per quello che porteremo sulla nostra tavola. Comunque lo rafforziamo il messaggio di cercare di valorizzare la nostra tradizione alimentare, quella italiana, Davide? Ma io sono anni che spingo su questo, però credo che la realtà poi non sia proprio questa, sia di altro genere, quindi che si vada verso altre tipologie di consumo e si vada anche non a rispettare più la tradizione. Lo dico con molta amarezza, però bisogna essere anche realisti. Benissimo, però buon Natale lo stesso, Davide, con quello che di buono troveremo sulle nostre tavole. Buon Natale anche con un piatto di spaghetti, figurati, e magari un bicchiere di acqua, però purtroppo buon Natale sempre a tutti. Però insomma, magari facciamoci un pochino più di attenzione a tutto questo. Cristian Broglia, buon Natale anche a te, naturalmente torneremo a disturbarti perché ci siamo divertiti molto questa mattina. Molto volentieri, sono a disposizione. Benissimo. Grazie per l'intervento e buon Natale a tutti. A presto, grazie a Cristian Broglia. Noi torniamo invece con Salva Danaio domani, come sempre parleremo del rapporto sul risparmio che viene presentato in queste ore a Roma dal BNL Centro Einaudi, e per adesso buona giornata a tutti.